lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. E non mi interessa più neanche di altro. Questa idea sovacca, puttana, troia di Vanessa. Lo amare schifosi! Di Aldo, questa idea sovacca, puttana, troia di Vanessa.